ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Effetto mondo. I mean that they don't do something and we just, you know, the electoral process is running around the edge of a cliff that goes into an abyss. Buongiorno Giulia. Buongiorno. Cosa abbiamo sentito? Era la voce di Bud Woodward, che è naturalmente autore del famoso scoop sul Watergate che fece dimettere Nixon, e adesso il suo ultimo libro Rage, cioè rabbia furiosa proprio, furia potremmo dire, che è quello dove c'è scritto anche tra le molte cose che Donald Trump sapeva fin da febbraio. Della cosa. E qui intervistato, naturalmente gli si voleva chiedere un parere sul dibattito di cui abbiamo parlato ieri, il primo confronto tra Donald Trump e Joe Biden, e lui ha detto quello che vorrei sottolineare un po' tutti i giornali americani hanno detto, perché qui in Italia ho sentito delle cose che veramente fuori dal mondo. È vero che si è trattato di un brutto spettacolo, è vero che tutti lo hanno definito il peggior dibattito tra presidenti della storia, e comunque dal 1988, quando c'è una commissione che li organizza. È vero anche, come del resto hai sottolineato anche tu dando la notizia del sondaggio, che se c'è un vincitore questo è stato Biden, perché Donald Trump ha detto una serie di cose molto, prima di tutto, inesatte sui vaccini in particolare e su altri temi come il clima. Quello che però preoccupa Bud Woodward, tanto da fargli parlare di essere sul precipizio, sull'orlo di un abisso per la precisione, è questo tentativo che Trump continua a portare avanti di gettare delle ombre sempre più fitte sulla legittimità del voto e sulla possibilità che in effetti il voto postale sia regolare. Per la questione sempre del voto postale. Sì, e dei brogli. Spieghiamola bene questa cosa qua, perché Trump è contrario al voto postale. Oddio, Trump negli ultimi 10-15 anni ha sempre votato per posta, e tra l'altro Joe Biden gliel'ha fatto notare, ma la provocazione tra virgolette non è stata raccolta. Trump dice che chi vota per posta, i voti che vengono mandati all'ufficio centrale dai vari stati per posta, spesso vengono buttati nel cestino. Continua a sostenere che vengono trovate decine, centinaia, migliaia di buste nei cestini. Sostiene che votando per posta possono anche votare persone che hanno identità diverse da quelle che dichiarano. Sostiene che le persone per posta possono votare più di una volta. Tutti argomenti non dimostrati. Con l'FBI che tre giorni fa ha detto non è vero che noi abbiamo questo sospetto di brogli sul voto postale. Ricordiamo che il voto postale è molto utilizzato negli Stati Uniti. A questo punto già circa un quinto degli elettori hanno già votato per posta, e questo naturalmente si lega all'idea che Trump anche lì continua a suggerire, che i democratici stanno cercando di rubare il voto, perché il voto andrebbe a lui, al Partito Repubblicano. Va bene, quanto abbiamo ancora prima di arrivare al 3 novembre con questa telenovela? Meno di 5 settimane, quindi qualche settimana. Il Wall Street Journal, comunque, per tornare al dibattito, che tra l'altro ieri Donald Trump ha di nuovo ha ripetuto tutti i temi che hanno suscitato più reazioni, compresa la mancata condanna a chiare lettere dei suprematisti bianchi. Però il Wall Street Journal parla a due argomenti sostanzialmente. Uno, il fatto che per i prossimi dibattiti del 20 e del 27 ottobre potrebbero proprio cambiare le regole. Cioè il moderatore della notte tra martedì e mercoledì per noi non poteva togliere il microfono o l'audio ai due avversari. Invece si sta pensando di farlo per i prossimi dibattiti, che è una cosa incredibile, cioè che sì, non nemmeno si... i bambini dell'asilo, due signori di 74 e 77 anni che non riescano a rispettare le regole. E l'altro tema, e qui andiamo sulla prima pagina del Wall Street Journal ma anche di Financial Times, è quello di questo piano di stimoli ulteriore per naturalmente arginare l'emergenza economica, 1,5 trilioni di dollari. Il segretario al tesoro Mnuchin dovrebbe proporlo oggi. Il problema è che questi pacchetti devono avere l'accordo del Senato e della Camera. Al Senato non ci sono problemi perché è controllata dai repubblicani, invece la Camera è controllata dai democratici e quindi si sta un po' tardando. Naturalmente Donald Trump è molto preme perché venga approvato questo pacchetto di aiuti e dovrebbe succedere insomma oggi. Che succede in Gran Bretagna invece? Se vuoi sentiamo l'audio, sì. Perché ieri in Parlamento hanno perso la pazienza, ma veramente forse gli eccessi di Boris Johnson cominciano a avere delle conseguenze anche sulla plomb di molti suoi parlamentari. C'è qui per esempio un parlamentare del Partito Conservatore che proprio a un certo punto, alla fine di questo audio sentirete forse un rumore, è lui che butta per terra i fogli da cui leggeva, perché è veramente molto molto arrabbiato. Che succede? Sentiamo, poi ce lo spiego. We want to see this virus beaten, of course we do, but it would be nice, just nice, if this house was shown some respect. Si sente la voce che si sta inerpicando. Dice, e poi... Ma è ovvio che tutti noi vogliamo che questo virus sia combattuto, ma vorremmo che il Premier mostrasse un pochino più di rispetto per questo Parlamento. Il fatto è che Boris Johnson un po', se ricordi, sono polemiche simili a quelle che abbiamo vissuto noi, cioè sta dettando la linea dicendo, adesso si parla appunto di questo inasprimento di nuovo delle misure, possibili lockdown. Escludendo il Parlamento e in particolare sulle ultime misure ha concesso soltanto 90 minuti discussione, e questo tra l'altro un Parlamento che ha ranghi ridotti, perché chi vi può accedere comunque lo fa con distanziamento, quindi ripeto, un Parlamento a ranghi ridotti, meno rappresentanti, e quindi questo parlamentare dice no, non è così, non è possibile. Tra l'altro Johnson, per esempio, il titolo del Daily Telegraph dice there is only one way of doing this, cioè c'è soltanto un modo, il mio modo di risolvere questo problema. Naturalmente i giornali più critici dicono il tuo modo di oggi è diverso dal tuo modo di un mese fa, dal tuo modo di due mesi fa, e ormai è direi unanime la critica a Johnson per aver cambiato troppe volte opinione. Secondo alcuni è in questo momento è troppo vittima dell'opinione dell'equivalente del comitato tecnico scientifico, in passato lo è stato meno, e quindi insomma grande confusione nei cieli del Regno Unito. Allora, delle tensioni tra Madrid e il governo centrale abbiamo parlato poco fa col collega Magarò, c'è qualche titolo sui giornali che evidenzia delle notizie? Insomma, in Spagna naturalmente ha fatto molto effetto la scomparsa di Kino, il loro disegnatore. Tra l'altro ci sono tantissimi fumetti sui quotidiani di oggi, perché Tagesspiegel decide di raffigurare la lite tra Donald Trump e Joe Biden con un'immagine tratta dai Peanuts di Charles Schulz. Sono Linus che lotta con Snoopy, e il titolo è Come bambini, perché appunto è sembrato questo, due persone non mature. Lo ripeto ancora una volta però, perché dei due sicuramente, ma lo ha detto il moderatore stesso, quello che ha interrotto di più, quello che ha usato parole meno piacevoli è stato Donald Trump, però il risultato l'avete visto. E poi invece Libera, anche qui una copertina piena di fumetti, perché per l'anniversario di Charlie Hebdo Liberazione ha invitato tutti gli autori di fumetti a disegnare un numero di Liberazione. Molto bello anche l'omaggio che rende Clarín, il principale quotidiano argentino, a Kino, che ha un supplemento speciale dove tutti i fumettisti argentini, gli autori di fumetti argentini, ricordano il loro collega spagnolo, che naturalmente era molto conosciuto anche in Argentina per il fatto della lingua, e poi era un po' una gloria degli autori di fumetti spagnoli. Ognuno lo ricorda a suo modo. Abbiamo ancora pochissimi secondi, forse un altro titolo o due, abbiamo lasciato forse i giornali tedeschi, no, sì. Hai citato già Tagesspiegel. No, però insomma anche lì c'è il tema delle vacanze. Sapete che in Germania anche i calendari scolastici sono organizzati in modo più distribuito durante l'anno, stanno arrivando le ferie di ogni santi, c'è molta preoccupazione per dove se i tedeschi avranno voglia di andare in vacanza e dove potranno andare. Ultimissima cosa, il 3 ottobre è ufficialmente l'anniversario della riunificazione della Germania, 3 ottobre del 1990, il muro era caduto il 9 novembre del 1989, ma in quella data fu ufficiale la riunificazione, quindi insomma un po' di festeggiamenti naturalmente con ai tempi del Covid, ma ci saranno. Ne parleremo. Grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi, con Pietro Lacorte in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Noi ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento. Da Alessio Maurizi, ciao, buona giornata. È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con SuperSite, su aruba.it.